implode, stanno fuori. È solo l'odio che implode, stanno fuori. È solo l'odio che implode, è l'odio. È solo l'odio che implode, stanno fuori. È solo l'odio che implode, stanno fuori. È solo l'odio che implode, stanno fuori. Se affronto ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché è l'unico pensiero a avere tutto subito me. Tra questa gente esiste in modo troppo stupido, se te vivo il mio presente a tratti duro e ruvido, scelte di vita. Odiami adesso perché a breve giro la clessidra. Non potrai vedermi, sparirò nell'alba mattutina. Se scindo particelle d'anima in base da mina, atomi di re, nicotina senza sottopelle. Transustazione dall'inchiostro, più margini di sangue. Tra chi fa su stazione piange seduto alle panche. Se vivo panche perché voi tre mi state sulle palle, poi per me non esistete come la spinanche. Odiami adesso, mi farai sentire più importante. Voglio che l'astio sia evidente sin dal primo istante. Le tue speranze si trasformano in rancore, il dissapore fa esaltare il nostro sadismo imperante. L'odio, il velo della gente in piazza. L'odio, il godo di una generazione stanca. Alzate il pugno chiuso, stringete solo niente. I pugni sopra il petto sono il grido di battaglia. L'odio, il grido della gente in piazza. L'odio, il grido di una generazione stanca. Alzate il pugno chiuso, stringete solo niente. I pugni sopra il petto sono il grido di battaglia. Io da sempre compongo frasi in calma apparente. Scompongo sensazioni dentro una paga crescente. La mente risplende, sguarda assente vitro, il braccio si distende, scrivo, la mia penna ti stende. Vivo, orme d'anima cupa che tende le braccia. Piega costrizioni che ha formato una gabbia. Calma, rabbia, luce, ombre, vite e morte. Distingui bene cacciagione, animale da caccia. La ragione si dimena, ora grida più forte. Tira la catena del golpe, forza nascosta in piazza. Gaffo battente che chiude le porte, morde, prede, sorde, colpe che si danno per sempre alla mafia. Odiami adesso se ne senti l'importanza, prima che io volti pagina causando la scomparsa delle piaghe da decupito di una generazione che a causa del tutto e subito vive nell'ignoranza. L'odio, il velo della gente in piazza. L'odio, il godo di una generazione stanca. Alzate il pugno chiuso, stringete solo niente. I pugni sopra il petto sono il grido di battaglia. L'odio, il grido della gente in piazza. L'odio, il grido di una generazione stanca. Alzate il pugno chiuso, stringete solo niente. I pugni sopra il petto sono il grido di battaglia. È solo l'odio che implode, stanne fuori. È solo l'odio che implode, stanne fuori. È solo l'odio che implode, solo l'odio che implode, che implode, che implode, che implode. È solo l'odio che implode, stanne fuori. È solo l'odio che implode, stanne fuori. È solo l'odio che implode, solo l'odio che implode, che implode, che implode, che implode. L'odio, il velo della gente in piazza. L'odio, il godo di una generazione stanca. Alzate il pugno chiuso, stringete solo niente. I pugni sopra il petto sono il grido di battaglia. L'odio, il grido della gente in piazza. L'odio, il grido di una generazione stanca. Alzate il pugno chiuso, stringete solo niente. I pugni sopra il petto sono il grido di battaglia.